E beh, lì no, butta giù la pasta che è pronta. Camari, camari. Oh, attenzione, dici. Va bene adesso, 6, 9, 10, quasi 9, 15, la di 5. Sei innescato col telefonino però, intanto. Sì. Adesso aspetto il telefonino, se no fa ritorno di Dacia. Guarda un po' adesso. Ecco, aspetto anche il telefono per il sicuro. 1, 2, 3, prova di modulazione. Vediamo se aumenta la radio. Adesso, com'è la radio? 1, 2, 3. La radio è molto amplificata, va benissimo. A voglia. Come ce l'ho 5 watt, solo. Aspetta un attimo. Ok, adesso sono quasi a 50. C'è il paruginoso, grazie. A volte quando fa vento si comincia a uscire male l'apparecchio. Adesso sembra che vale bene. Se anche un po' saturata, è comprensibile la radio. Aumentate il segnale, 9.20. Certo, sì. Aspetta che scendo. Ecco, adesso dovrebbe essere perfetto. Sì, adesso può. Comunque mi senti meglio adesso che l'altro giorno, È un'altra cosa adesso. È in bazooka ci avevo messo, capito? Ho sceso la tela pulita, si è fatto la saldatura al piede sotto l'antenna, e ho fatto un po' di accorgimenti, bruncini nuovi, rallungiti, ho messo in acciaio che non si rigiriscono più, un po' di grasso. Ho capito. Mi arrivato su alla alberghiera a vedere, perché visto che è morto Mario Manca, quindi c'ha una B27 L, c'è un barattino, vediamo l'altro io, vediamo se trovo la moglie, glielo chiedo, se non se ne fa un tubo, se me lo dà, tiro con l'antenna, così ti piatti, ti tagli quella. E che antenna è? Come quella che sto usando io adesso, una è meglio di 5 ottavi, dai. Sì, va bene, cavolo, perfetto. Se trovo una vita già glielo chiedo, se non ce la... spero che penso l'abbia conservata Mario, capito? Quindi già gliela chiedo, se ce l'ha ancora, che non se ne fa niente, che me la date, ti chiama al telefono così, scendi che la ritiri. Ecco. Ma io manca, quello del circolo su all'alberghiero. Alberghiero, sulla sera seccata. Eia, è morto 2 settimane fa. Sì, capita. E lì che faceva anche consulto era anche Franco Fassi che è morto, che sarebbe il fratello di Gianni Sassari 2. Penso di sì. Non lo so la verità. Ci sarebbe spesso cosa. Adesso mi viene in mente il nome del CB, l'avevo visto parecchie volte, saliva lì, vabbè, io non ci stavo più sapendo, non avevo un po' di tempo, anche perché a farmela a piedi fino a Chibi e poi a scendere a piedi, non ho più voglia, una volta ci salivo tutti i giorni perché c'avevo la moto, adesso sono parecchio, non lo vedevo, non ho saputo da mettere Giovanna che pratica, dicevo sai che c'è molto male io. Mario Manca, ma dica. Cazzo, ho detto, bubù. Niente, correnti. Ma tu quando è che ci vuoi salire? Se vuoi salire sabato, andiamo insieme, ti accompagno io. Perché dove sto lavorando? Non lo so sabato, perché anche perché c'ho Simona che non sta bene, capito? Sto uscendo poche volte, mi sono uscito ieri, ho fatto la spesa, veloce, e poi sono entrato qua. Sono uscito due volte, una volta con Giovanna sono uscito ieri sera. Devo trovare una giornata che Simona sia meglio, che non posso filare da sola, capito? Perché c'ha problemi alle gambe, capito? Vabbè, mi chiami quando sta meglio Simona, quando puoi salire così. Vengo anch'io, ti prendo, saremo su. Vabbè, non c'è problema. Ti faccio sapere quando sta meglio, così almeno saliamo su e glielo chiediamo, non costa niente. Ma io non vedo che ci viene, dove sono io? Questa qua la stazione. Dove c'è la scuola? Proprio attaccata alla Belghero, un pochettino più giù, sempre la Belghero, cioè l'ex la Belghero, perché adesso è diventata un'altra scuola, fai 50 metri più giù, c'è questo campo di calcetto piccolino, e poi se anche il campo di calcetto c'era il circolo, capito? Scusa, si chiama istituto d'arte, Antonello. Ed è la succursale che c'è piazza d'Appia, ma io lavoro nelle scuole che sono tutte, capito? E quindi, più giù, sotto l'arte c'era il circolo sulla destra, quindi rimane più giù a sinistra. Esatto, sì. Il circolo è lì. Proprio di fronte al cappetto di calcetto. E come entrava lui in frequenza? Il nome del tipo suo era Mario Eccezionale, ci aveva un camion parecchi anni fa e faceva trasporti, capito? E in più c'era quel circolo, quando finiva di lavorare col camion, parcheggiava il camion lì, parcheggiava all'interno e poi rimaneva con la moglie lì al circolo, perché rimaneva la vita lì, capito? Ok Antone, vabbè dai che io vado a prendere in carica, per caso ci sentiamo dai, grazie per i controlli. Ciao Antone. Ehi, ciao, tutti ci sentiamo. Ti faccio sapere qualcosa appena sta meglio, così almeno saliamo su e glielo chiediamo. Ok, alle prossime. Ciao. Ok, ciao Antone.